Come è vista in società la persona fragile, secondo te? È un po' emarginata, un po' malvista. Perché? Ma perché non voglio usare parloni tipo che sei stigmatizzata, anzi un tempo si usava questo parlone, ora forse un po' meno. Però per fare un esempio banale banale, sarà il mio look, saranno le mie difficoltà, ma mi sono preso tante di quelle battute sciocche, tante di quelle battute gratuite, tipo passare vicino a un bambino, passarlo e fare qualche metro avanti e sentirlo non è lì, lì ti fa paura, ma non come domanda, ma come affermazione. Che usando un vecchio termine, non so se sia ancora in voga, mi facevano venire il latte alle ginocchia, comunque proseguivo per la mia strada, non reagivo, e forse era meglio così, ma era un po' deludente la situazione, perché nessuno, io non sono uno stinco di santo, però non ho fatto male, non si è mai fatto male a nessuno, se non scaramucci con mio fratello o poco altro, e nel corso della mia vita ho subito tanto. Posso dirvi qualcosa di più? Sono stato in collegio a suo tempo, non in collegio carcere come a volte si dice, usa come sinonimo, ma in collegio si diceva che in no, ero in collegio per studiare. E nel lontano anno scolastico 85-86, praticamente per 8 mesi e mezzo su 9, sono stato il bersaglio preferito si può dire praticamente dall'intero collegio perché eravamo in circa 65. Se mi portavano rispetto in 5 erano tanti, tutti gli altri che uno scherzetto, che un gran pugno sulla spalla, che un'offesa anche pesante, non mi veniva risparmiata. Non faceva niente, cioè non parlava. Non Io, ma parlare, avevo un po' di difesa verbale, qualche parolaccia, lo ammetto, a dirlo che ero tondo era brutto dirlo, ma lì c'era chi si gasava, che vantava, che valeva la legge del più forte, sarei dovuto essere manesco e forzuto, e non sono mai stato così. In poche parole avrei dovuto avere la reazione fisica per farmi rispettare, secondo me l'avrei più preso che dato, comunque non ero mai riuscito a trovarla. Secondo te, tutti possiamo essere fragili nella vita? Sì, è possibile perché a seconda che ci sono anche persone che hanno il cosiddetto carattere forte, però in base ai, non so, momenti, periodi, non so, leggevo anche le parole scritte da uno psichiatra che diceva che nessuno, ben pochi, sono forti come le rocce, per usare un termine un po' comprensibile. Che non si dice che chi non ha difficoltà non valga niente, non sia mai fragile o sia sempre King Kong, però insomma. Almeno non so voi, comunque io e anche altri entriamo facilmente in dispiaceri, non solo personali, anche per quello che ci sta attorno, per quello che succede, la società in senso lato.